fece l'altare degli olocausti in legno d'acacia, lungo 5 cubiti, largo 5 cubiti, quadrato, alto 3 cubiti. Fece i suoi corni ai suoi 4 angoli, e i suoi corni erano un tutt'uno con esso. Lo ricoprì di bronzo. Fece tutti gli oggetti dell'altare, i recipienti, le palette, i catini, le forcelle, i braceri. Tutti i suoi oggetti li fece di bronzo. All'altare fece una graticola lavorata a forma di rete di bronzo sotto la cornice dell'altare, verso il basso, così da giungere sino a metà altezza dell'altare. Fuse 4 anelli alle 4 estremità della graticola di bronzo per inserirvi le stanghe. Fece le stanghe in legno d'acacia e le ricoprì di bronzo. Fece introdurre le stanghe negli anelli ai lati dell'altare per sollevarlo con esse. Lo fece di tavole, vuoto all'interno. Fece una vasca di bronzo con il suo supporto di bronzo, usando gli specchi delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda del convegno. Fece il recinto. Sul lato sud, a meridione, i tendaggi del recinto erano 100 cubiti di bisso ritorto. Le sue colonne 20, con 20 basi di bronzo. Gli uncini delle colonne e le loro aste trasversali erano d'argento. Sul lato settentrionale 100 cubiti di tendaggi, con le sue 20 colonne e le sue 20 basi di bronzo. Gli uncini delle colonne e le loro aste trasversali d'argento. Sul lato occidentale 50 cubiti di tendaggi, con le sue 10 colonne e le sue 10 basi. Gli uncini delle colonne e le aste trasversali d'argento. Sul lato est, a oriente, 50 cubiti. 15 cubiti di tendaggi, le sue 3 colonne e le sue basi per la prima ala. Per la seconda ala, 15 cubiti di tendaggi, con le sue 3 colonne e le sue 3 basi. Le 2 ali erano da una parte e dall'altra della porta d'entrata. Tutti i tendaggi intorno al recinto erano di bisso ritorto. Le basi delle colonne di bronzo, gli uncini delle colonne e le sue aste trasversali d'argento. Il rivestimento della loro cima d'argento e tutte le colonne del recinto avevano aste trasversali d'argento. Il velo della porta del recinto era opera di ricamatore, di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, lungo 20 cubiti, alto 5 nel senso della larghezza, come i tendaggi del recinto. Le relative 4 colonne e le loro 4 basi erano di bronzo, i loro uncini d'argento, il rivestimento della loro cima e le aste trasversali d'argento. Tutti i picchetti intorno alla dimora e al recinto erano di bronzo. Questi sono i conti della dimora della testimonianza, redatti per ordine di Mosè dai Leviti, sotto la direzione di Itamar, figlio del sacerdote Aronne. Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, e con lui Oholiab, figlio di Achisamac, della tribù di Dan, intagliatore, disegnatore, il ricamatore di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso. Tutto l'oro impiegato per il lavoro, in tutta la costruzione del santuario, oro presentato in offerta, fu di 29 talenti e 730 sicli del siclo del santuario. L'argento raccolto in occasione del censimento della comunità fu di 100 talenti e 1775 sicli del siclo del santuario. Un beche a testa, cioè un mezzo siclo del siclo del santuario, per tutti coloro che furono sottoposti a censimento dai 20 anni in su. Erano 630.550. 100 talenti d'argento servirono per fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per 100 talenti, un talento per base. Con i 1775 sicli fece gli uncini alle colonne, ricoprì le loro cime e fece le loro aste trasversali. Il bronzo presentato in offerta era di 70 talenti e 2400 sicli. Con esso fece le basi dell'ingresso della tenda del convegno, l'altare di bronzo e tutti gli oggetti dell'altare, le basi intorno al recinto, le basi della porta del recinto, tutti i picchetti della dimora e tutti i picchetti intorno al recinto.